GR24, il sole 24 ore. Lagarde, meno di 3 mesi per salvare l'euro. Napolitano, l'UE non sia solo Francia e Germania. Italia sotto attacco, vola lo spread. Il governo presenta il maxi emendamento al DDL anticorruzione. L'USI, la giunta del Senato, dice sì all'arresto. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchi. In primo piano la direttrice generale dell'FMI, Christine Lagarde, che invita ad un'azione tempestiva per salvare l'euro. Quanto l'uscita dalla Grecia dalla moneta unica, dice, è una questione di volontà politica. Various things need to happen shortly, more shortly than 3 months, I would say. Poche parole che però non lasciano molto spazio alle possibilità. Per recuperare la situazione, per salvaguardare l'euro, bisogna fare in fretta, dice Christine Lagarde. 3 mesi, come ipotizza uno come George Soros, che spesso indovina. More shortly than 3 months, I would say. Prima, molto prima, afferma la direttrice generale del fondo. Non voglio dire che ci sia una deadline. Del resto, per costruire l'eurozona c'è voluto tempo ed è ancora in costruzione. Ma c'è bisogno di una risposta, una reazione chiara e veloce. Vale a dire che per metterla su la moneta unica richiesto anni. Ora, come spesso accade, siamo a un soffio dal mandarla al tappeto. Bene i fondi per la ricapitalizzazione delle banche spagnole, sono un passo importante, dice il numero 2 dell'FMI, David Lipton. Ma più in generale l'Europa ha bisogno di molto di più, visto che molti paesi dovrebbero perseguire il consolidamento fiscale. In altre parole, fin qui si è cercato di porre rimedio alla debolezza, più o meno bene, più o meno in tempo, con fondi erogati ai paesi in difficoltà. Ma il rischio contagio è evidente e i mercati non hanno accordato la fiducia sperata alla soluzione trovata per Madrid. Conclusione, solo un'Unione Europea politica e finanziaria può garantire il futuro dell'euro. Valeria De Rosa, Radio 24, il sole 24 ore. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in visita a Varsavia, invita a non restringere la responsabilità della politica europea ad una coppia di paesi molto legati ed influenti come Francia e Germania. Ci siamo detti che occorre fare ogni sforzo, anche ogni sforzo congiunto, intendo dire, perché sia un consiglio di svolta nel duplice senso di un momento di conclusiva definizione dell'impegno solidale dell'Unione per la difesa dell'euro e anche quindi per il superamento delle particolari difficoltà dei paesi che hanno maggiori pesi di debito sovrano e che tuttavia stanno facendo ciascuno per proprio conto lo sforzo necessario per uscire da questa pesante eredità del passato. E poi Napolitano spinge il governo a proseguire sulla strada delle riforme. Non possiamo che augurarci, augurare all'Italia e augurare alle forze imprenditoriali, sociali e politiche italiane la coerenza necessaria, la determinazione necessaria perché vadano avanti le riforme strutturali e le politiche di risanamento della finanza pubblica che sono state intraprese dal governo Monti. Intanto le borse sono negative e vola lo spread. Tutti gli aggiornamenti in diretta da Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, per la verità stamattina abbiamo avuto un andamento a due velocità per i listini europei, due velocità che si mantengono perché Francoforte, Parigi e Londra muovono al rialzo adesso con guadagni intorno al 0,5% percentuale e Milano invece che continua a perdere terreno anche se è migliorata rispetto all'apertura, è arrivata a perdere quasi 1,5 punti, adesso il FTSE MIB arretra dallo 0,46%. Anche le rassicurazioni arrivate dall'agenzia di rating Fitch sul fatto che l'Italia non ha bisogno di aiuti come la Spagna e che le banche sono solide non sono bastate, anzi ancora una volta proprio il settore creditizio resta il più venduto a Piazza Affari. I titoli peggiori in questo momento: Monte dei Paschi meno 4, Unicredit meno 2,5, Mediolanum meno 2,33%, Intesa meno 2,32 sono le big e a loro fa compagnia anche Fiat Industrial che perde il 2,77%. L'euro sul dollaro è a 1,2502, lo spread fra BTP e Bund stamattina è ripartito a razzo superando nettamente la soglia di 480, poi è sceso di nuovo ma continua ad orientarsi sui 470-75 punti base, per cui tensione ancora alle stelle sul mercato obbligazionario con il rendimento del titolo decennale che continua a gravitare intorno al 6% per il momento. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Pressing dei sindacati sul governo dopo la diffusione del documento dell'INPS sulla platea degli esodati, secondo cui il numero sarebbe di 390.200 persone. Ieri il ministro del lavoro Fornero aveva spiegato che l'esecutivo sa che il decreto sui 65.000 non esaurisce la platea. Secondo il segretario della CGIL Susanna Camusso serve una via d'uscita uguale per tutti. Anche Bonanni dalla CISL chiede che si trovi una soluzione e dall'UGL Centrella chiede al governo di fare chiarezza. E intanto proprio il governo ha presentato il maxi emendamento al DDL anticorruzione su cui chiede la fiducia. Gli aggiornamenti in diretta da Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, dopo una mattinata incerta, il governo pone la questione di fiducia nell'aula della Camera sul DDL anticorruzione, l'ha appena annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento Piero Giarda, e la fiducia è posta sul testo delle commissioni. Tutto questo mentre si ipotizzavano anche tre fiducie spacchettate sui vari punti del testo, in una conferenza dei capigruppo molto molto accesa e con il presidente della Camera Gianfranco Fini che criticava il governo per le sue incertezze. Sentiamo Fini. Pur essendo stato deciso nella mattinata di giovedì che martedì mattina alle ore 11 il governo avrebbe riferito all'Aula circa la volontà di porre la questione di fiducia o circa la decisione di proseguire nell'ordinario svolgimento dei lavori, martedì mattina alle ore 11 siamo esattamente nella stessa identica condizione in cui eravamo giovedì, il che, ho il dovere di dirlo, mortifica il ruolo della Camera, perché il governo ha avuto 5 giorni per sciogliere questo nodo. Al Senato invece la Giunta per le immunità vota sì alla richiesta di arresto dell'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, ma bisognerà vedere cosa succederà in aula se viene chiesto lo scrutinio segreto che la scorsa settimana ha salvato Sergio De Gregorio coinvolto nel caso La Vitola. Grazie ad Elisabetta Fiorito, ora veniamo invece all'inchiesta che coinvolge l'ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati. Il rinvio a giudizio dovrebbe arrivare a breve. Le indagini sono state chiuse pochi giorni fa e le accuse che i PM di Monza lanciano a Filippo Penati sono pesantissime. Il sistema Sesto si configurava, secondo i magistrati, come una vera e propria rete parallela occulta tra politica ed imprenditoria. Accuse che passano dalle indagini sulle aree ex Falche e Marelli e approdano all'acquisto da parte della provincia, di cui Penati era presidente, della quota della Milano-Serravalle in mano al gruppo Gavio. Penati ha trovato spazio di trarsi una sua stecca personale, dice in una conversazione telefonica un alto funzionario di Banca Intesa. Soldi, come quelli per i lavori nelle ex zone industriali, che Penati nega di aver mai ricevuto e che invece, secondo i PM, potrebbero aver preso due vie. Quella del finanziamento all'associazione Fare Metropoli, strumento tra l'altro della campagna elettorale dello stesso esponente PD, e quella di Roma, del partito. A parlarne è anche Diego Cotti, vicino a Penati ma genero di Pasini, il costruttore che ha fatto scoppiare il caso. Dovevo convincere Pasini ad acquisire il terreno dai Falcher, racconta i magistrati, con la certezza che sarebbe diventato edificabile. In cambio avrebbe corrisposto una provvigione proporzionale all'affare, soldi destinati al gruppo Penati, spiega ancora, ma anche il partito avrebbe avuto la sua parte attraverso le COP. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il Servizio Civile Nazionale sono in arrivo 50 milioni di euro per il biennio 2013-2014. Lo ha reso noto il ministro per la cooperazione Andrea Riccardi in una conferenza stampa. Faremo partire 18.810 volontari nel 2013 e altrettanti l'anno dopo, ha precisato il ministro, spiegando di aver reperito queste risorse nei capitoli di sua competenza, a valere sull'esercizio finanziario del 2012. Soldi trovati, ha detto ancora Riccardi, facendo grandi sacrifici, ma ne vale la pena per far continuare a vivere questa esperienza. E ora parliamo di green economy. Per uscire dalla crisi, suggerisce così il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che stima l'assunzione di almeno 60.000 giovani esperti nelle imprese che operano nei settori avanzati dell'economia verde e della protezione del territorio. L'ha intervistato Sebastiano Barisoni, sentiamolo. Quelli di punta per l'economia verde, prima di tutto la gestione del territorio, la protezione del territorio, soprattutto nelle aree che riguardano la prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico. Poi nel settore delle fonti rinnovabili, il nuovo fotovoltaico, sì, il solare a concentrazione, il solare termodinamico, la geotermia. Tenendo conto che in tutte queste 4 aree noi abbiamo già imprese che operano al top delle tecnologie a livello mondiale, e perciò questa misura serve anche in qualche modo a sostenere la competitività di queste imprese in un momento nel quale hanno difficoltà, anche se non altro per l'accesso al credito. E l'intervista integrale, vi ricordiamo, potrete ascoltarla sul nostro sito www.radio24.it. Ben ritrovati da Adriana Fracchi, anzitutto le notizie principali di oggi. Lagarde, meno di 3 mesi per salvare l'euro. Napolitano, l'UE non sia soltanto Francia e Germania. L'Italia sotto attacco, vola lo spread. Il governo presenta un maxi emendamento al DDL anticorruzione e per l'USI la Giunta del Senato dice sì all'arresto. Scosse di assestamento che andranno avanti per diversi mesi e la cui intensità andrà invece progressivamente riducendosi. Così i sismologi classificano le 8 scosse di questa notte in Emilia. La più forte di 4.3 alle 3.48 non ha fatto danni. Moglia in provincia di Mantova, Fabbrico, Reggiolo e Rolo in provincia di Reggio Emilia, Carpi e Novi di Modena nel Modenese, questi comuni epicentro del sisma. E intanto il presidente di Confindustria Squinzi, oggi a finale Emilia con il ministro Passera, chiede correttivi al decreto del governo per la ricostruzione. Katia Caramelli ha sentito il presidente di Confindustria Emilia Romagna, Gaetano Maccaferri. Nei comuni che sono stati classificati come area sismica, molti dei capannoni, spesso la maggioranza dei capannoni, non hanno subito in realtà dei danni strutturali, per cui in questi è necessario, ottemperando ovviamente ai criteri di sicurezza maggiori, però la possibilità di riattivare più presto l'attività. Voi che proposte avete fatto al riguardo? La proposta è quella di poter intanto certificare la stabilità statica dell'edificio, cioè il fatto che non abbia subito dei danni, e contemporaneamente alla presentazione del progetto per risolvere là dove ci sono quei problemi previsti dal decreto, si possa contemporaneamente già avviare l'attività. Vicino alla popolazione ci sono i sindaci della provincia di Modena, divisi tra la risoluzione dei problemi di tutti i giorni, dalle mille emergenze e i pensieri lunghi della buona amministrazione. Cristina Carpinelli ha girato questo reportage di Italia in controluce a fianco dei sindaci dei principali centri emiliani interessati dal sisma. Questo è un breve estratto di ciò che sentirete alle 13.30. Guardi, io le posso dire da San Feliciana, quindi io abito e vivo e dormo sul cratere, che la situazione è veramente esasperante. C'è una grande fermezza d'animo, una grande determinazione, un grande impegno dalle amministrazioni alle forze dell'ordine, però davvero uno stillicidio. Siamo sempre pronti a ripartire, ma queste scosse continuamente ci segano le gambe. Qui a Modena, questa mattina sono venuta in ufficio e andrò a Bologna appunto per affrontare i temi della scuola e dell'edilizia scolastica. A Modena c'è molta paura, perché indubbiamente, anche se non ci sono dei danni alle cose, non ci sono i crolli e la devastazione dell'area della bassa nelle quali vivo, c'è però molta preoccupazione, perché come mi diceva lei le scosse si avvertono distintamente e quindi la situazione generale è quella di uno stress continuo, insomma. L'assessore all'istruzione della provincia di Modena, Elena Malaguti, è di San Felice, uno dei comuni più colpiti dal terremoto in Emilia. Ma lei lavora a Modena, dove il terremoto ha fatto pochissimi danni. Eppure non ha mai smesso di prendere l'auto e arrivare in ufficio, puntuale, senza mai sovrapporsi al lavoro degli altri amministratori locali. Ognuno ha un compito e la promessa è quella di non andare a toccare il compito dell'altro. Non fanno retorica eroica e ci dicono soltanto che si lavora e si ha paura. Ce lo dicono tutti. Alberto Silvestri è il sindaco di San Felice. Un dato di paura permanente e di smarrimento, sembra quasi che siamo tutti in attesa della scossa successiva. E per cui la situazione non è granché cambiata. Ieri abbiamo, diciamo così, ultimato, dato seguito a tutte le richieste che c'erano pervenute di alloggio, quindi nei vari campi tenda, consapevoli del fatto che molta gente ancora continua a rimanere in adiacenza alla casa, con la macchina, con una tenda, con una roulotte, con un camper, insomma, a seconda di sistemazioni più o meno fantasiose di fortuna, ecco, diciamo così, per cui questo è più o meno quanto, ecco. A San Felice i danni del terremoto sono stati del 70% alle imprese. Attorno al paese le cascine dei contadini sono mezze crollate e per molti giorni intere famiglie sono rimaste isolate e senza acqua. Ancora il sindaco di San Felice. Noi stiamo cercando di raggiungerli, non è facile perché a volte sono situazioni abbastanza critiche, isolate, anche perché tutto il personale è abbastanza, diciamo così, coinvolto nella sistemazione dei campi, nell'organizzazione e nel cercare di fare ripartire un po' tutta la macchina, diciamo così, amministrativa. Il reportage integrale potrete ascoltarlo sul nostro sito www.radio24.it. Un peschereccio egiziano con una sessantina di migranti a bordo, tra loro circa 15 minori, è stato intercettato al largo delle coste ragusane da due unità della Guardia di Finanza. È stato bloccato a conclusione di un lungo inseguimento cominciato davanti alla costa di Pozzallo. E 31 migranti sono stati invece bloccati stamani dalla polizia sulla spiaggia di Tre Fontane nei pressi di Mazara del Vallo. È stato presentato oggi a Roma il rapporto annuale di Federculture 2012. Positivi gli esiti che rivelano come pur in uno scenario di recessione il settore dell'industria culturale sia vitale ed abbia grandi potenzialità nel nostro paese e come la politica debba tenerlo in più alta considerazione. Sentiamo il presidente di Federculture Roberto Grossi ai nostri microfoni. L'arte e la cultura battono la crisi. Lo spettacolo, il teatro, il cinema, le visite a musei sono un ramo vitale dell'economia. I cittadini, le famiglie non rinunciano ad andare a ascoltare una buona musica o vedere una bella mostra rispetto ad altri settori che invece si presentano in crisi. Un esempio, i dati generali dei consumi delle famiglie sono cresciuti del 2,6 nel 2011 rispetto all'anno precedente e addirittura nel triennio in cui è scoppiata la crisi e poi la recessione, cioè quindi nel triennio 2008-2011, sono cresciuti del 7,2%. Questo ha evidentemente un significato. Il tema della conoscenza, della diffusione dei saperi è un tema centrale, come dopo la guerra non si rinunciava a portare il proprio figlio a scuola e si è rilanciata l'industria cinematografica nel nostro paese, così ancora oggi in piena recessione la domanda di cultura è una domanda veramente molto forte. Il secondo elemento di valutazione è che proprio per questo, in un momento in cui il governo deve decidere che strada prendere per imboccare veramente il rilancio e la crescita del paese, beh, non si può rinunciare alla competitività che deriva dal design, dai nostri prodotti migliori, compreso l'opera, che esportano a livello internazionale 23 miliardi di dollari, questi sono i dati del 2010. Siamo il primo paese dell'economia del G8 esportatori, per esempio, in design. Purtroppo, a fronte di questo dato estremamente positivo, mancano le politiche, manca un intervento pubblico sull'industria culturale e creativa. E ora con Carlo Genta facciamo il punto sugli europei di calcio di Polonia e Ucraina. Buongiorno Carlo. Buongiorno Adriana, è il caso perché adesso finalmente le abbiamo viste tutte, abbiamo visto il primo giro di valzer, anzi di polka di questi europei, ha chiuso l'Ucraina padrona di casa battendo nel segno dell'eterno Andriy Shevchenko la Svezia di Ibrahimovic. Il leitmotiv di questa partita era proprio questo, il confronto tra i due, tra il milanista Ibrahimovic e l'ex milanista Shevchenko. Ha vinto 2-1 Shevchenko, doppietta per lui, gol di Ibra, per una Svezia che è apparsa in realtà non un granché come diverse altre squadre all'inizio di questo torneo. In precedenza abbiamo visto ieri nel pomeriggio Francia-Inghilterra. Francia di grande talento, ma forse un po' morbida, Inghilterra che non sembra una squadra da corsa per questo europeo, ma siamo solo all'inizio e oggi cominciamo il secondo giro con un gruppo A che non è esattamente il massimo del divertimento, della spettacolarità, a cominciare da Grecia, Repubblica Ceca che si gioca alle 18, più interessante e anche più complicata dal punto di vista dell'ordine pubblico, così si annuncia, grandi misure di sicurezza, sarà Polonia-Russia che si gioca alle 20:45. La Russia guida con 3 punti, Grecia e Polonia 1 punto, Repubblica Ceca 0, questa è la classifica alla vigilia della seconda partita di questo gruppo A. Adriana. Grazie a Carlo Genta. È morto oggi a 60 anni il pugile cubano Teofilo Stevenson. Che cos'è 1 milione di dollari rispetto all'amore di 8 milioni di cubani? Con queste parole, nel 1976, Teofilo Stevenson aveva rifiutato 5 milioni di dollari. I promoter americani glieli avevano offerti per combattere contro Muhammad Ali. Sarebbe stato l'incontro del secolo, ma anche l'ennesimo capitolo di quella guerra fredda che allora si combatteva anche nello sport. Dai campi da basket ai tornei di scacchi, dalle piste di atletica al ring. Ma Teofilo Stevenson ha sempre rifiutato di diventare professionista, così come voleva il regime castrista cubano, dove solo il dilettantismo è permesso. E così oggi, colpito da un infarto a 60 anni, se n'è andato non solo uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, ma anche un simbolo per l'intera isola di Cuba. Dopo aver vinto 3 Olimpiadi nei pesi massimi nel 72, nel 76 e nell'80, aveva rinunciato alla possibilità di vincere una quarta volta, fedele al boicottaggio sovietico delle Olimpiadi di Los Angeles. A fine carriera, dopo 301 vittorie su 321 incontri disputati, Stevenson era diventato allenatore del programma di pugilato dilettantistico di Cuba. Lucio Bondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo del concerto di Madonna a Roma. Madonna è di scena stasera all'ombra del cupolone. Si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma in quella che è la quarta tappa del suo tour mondiale, che si chiama come l'ultimo disco MDNA. Dopo 30 anni di carriera la ricetta è sempre la stessa: imponente macchina scenografica, decine di ballerini, sempiterni reggiseni a cono di Jean-Paul Gaultier, trasgressione mischiata a misticismo. È così che Madame Ciccone conta di restare sulla breccia nonostante l'età, ad agosto saranno 54, e Lady Gaga che le fiata sul collo. Nella prima data del tour, quella del 31 maggio a Tel Aviv, la pop star ha mostrato l'immagine di Marine Le Pen con una svastica in fronte, gesto che le ha procurato, oltre che molta pubblicità, la richiesta di $1 milioni da parte della leader dell'estrema destra francese. A Istanbul, il 7 giugno, nuova provocazione. In un improvvisato spogliarello davanti ai fan in visibilio, Madonna ha mostrato il seno, un filmato amatoriale che riprende il momento e già tra i più cliccati di internet. C'è da chiedersi che cosa si inventerà la Ciccone per il concerto di questa sera, a due passi dal Vaticano. Chi è curioso può ancora pensare di andarci. L'evento, infatti, non è sold out. Ad avanzare soprattutto i biglietti più cari, quelli che si aggirano intorno ai 150 euro. Chi non bazzica la zona della capitale può ripiegare sulla seconda data italiana, quella del 14 giugno a Milano, o sull'ultima, quella del 16, allo Stadio Franchi di Firenze. Anche in questi casi c'è ancora disponibilità. Perché alla fine a cambiare per la pop star italo-americana per ora sono solo le vendite. Deludenti quelle dell'ultimo album, non all'altezza delle aspettative quelle per quest'ultimo tour. In mancanza di nuove idee dunque, nonostante l'eterna giovinezza rincorsa su di Pilates, diete e beveroni, nonostante il fidanzato ragazzino, il 24enne franco-algerino Brahim Zaibat, Madonna rischia di rimanere, come l'aveva definita il Time Magazine, una delle 25 donne più potenti del secolo scorso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento in regia a Fabio Cantadori. Un saluto e un augurio di buona giornata da Adriana Fracchia. GR 24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.